amici, benvenuti a questa ennesima puntata di A Tutto Gol, la trasmissione che ogni volta vi alleta la giornata e vi fa dimenticare la manovra Monti. Ma quale le vendica? Hanno aumentato la benzina, come pare, e io me le ascurde. Per favore regista, non facciamo brutte figure, che oggi abbiamo un ospite internazionale. E chi la viva Giruzzi Santa Fe? Regista, stati calmo, cagio, signor nervoso. No, abbiamo direttamente dalla Russia l'ex campione dell'Inter, Samuel Eto'o. Hasta la vista, Paulos. Ma quale ex? Ciao Samuel, vedo che mi hai salutato in spagnolo. Lo sappiamo tutti che tu sei un poliglotta. Ah, yes, you grand figlio di poliglot. Vabbè, lasciamo stare. Ma parliamo di una curiosità che ho letto oggi. Ma tu saresti di origine calabrese? Oh yes, my mother lavorato in Calabria su 106. Faceva dama compagnia. Sì, io sono un assiduo frequentatore di quella zona per lavoro. Sì, mia madre mezza brasileira, mezza africana. Si chiama Carmenzita dos Santos do Abdul da Madonna dos Santos. Sì, come no, me la ricordo. Comunque, e poi raccontaci di te, come era? Sì, yes, come no, this is very nice. Poi mia madre emigrò in Spagna. Do you know Spain? Va. Spagna, per perso il copione cazzo. Dopo aver conosciuto un certo grande procuratore. E chi ne è questo? Ci non si sente fare. Era ancora questo, vabbè. Ma chissà quanti anni tene. Comunque, poi arriviamo ai nostri giorni con la grande esperienza prima a Barcellona e poi all'Inter. E chi è diventato con presenza, non è a te? Cosa ti resta dell'esperienza italiana? Oh yes, che ci vuole dire tanto, i soldi, che mi resta? mi resta qua perché sono l'unico che ha vinto qualcosa lì. Va bene, ma perché sei andato via? Per i soldi? No, io sono andato via perché se ero del presidente mi voleva fare. Ma meglio essere froci che andare con quello. Eh beh, certo. Ma cosa pensi della confusione che oggi regna l'Inter? Hanno comprato Forlan e si sono accorti che non poteva disputare la Champions. Very pirla questa qua, non capiscono un cazzo, per questo hanno venduto me. Comunque, speriamo che se lo prendano presto e che poi io torno faccio. Scusa, per concludere, ho passato un paio di situazioni, malato. Sì, fammi venire però, che sennò ti spacca la faccia. Competenza. Casini, cos'è? Per concludere, cosa pensi della biografia di Ibra? Voi vi siete incontrati, incrociati, cosa vi siete detti? Lui mi ha visto in spogliatoio, mi ha detto: io sono Ibra, tu che cazzo sei? E tu che cosa gli hai risposto? E sono l'anima di chi ti è morto, mamma di origine calabrese. Senti, tranquillo che si sente proprio così calabrese. Va bene, ti ringraziamo e speriamo di averti di nuovo qui, magari in tua Cosenza, anzi in tua nuova Cosenza. Io no, anche perché, ma sinceramente, che cazzo? Che cazzo, 20 milioni euro messi per me. Sì, come no, pensavi 20 milioni a chi sono un bacio di serie D, vabbò, lasciamo stare, ciao, ok, ciao, tu e mamma, ciao.